Il gastronauta di Davide Paolini. Eccoci, cari gastronauti, è tempo pericolosi, è tempo di tartufi, è tempo di funghi e anche di selvaggina e di grandi rossi che sono in arrivo. Quindi è un momento davvero straordinario per mettersi in auto o in aereo o, perché no, anche in motocicletta e girare l'Italia appunto a caccia di queste prelibatezze che stanno arrivando. Alcune sono un po' in ritardo, ma vedremo, faremo un giro dell'Italia, andremo a scoprire soprattutto dei posti non molto conosciuti sia per il tartufo che per i funghi, quindi vi faremo scoprire, prendete appunti perché sicuramente avremo moltissimi indirizzi da segnalarvi. E allora io voglio cominciare questo viaggio meraviglioso tra odori, profumi. Sento già il profumo del tartufo bianco, ma sento anche l'odore e il profumo dei porcini. Bene, sentiamo da Antonio Dal Lago del Casin del Gamba, bellissimo ristorante ad Altissimo in provincia di Vicenza. Dal Lago, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti quanti. E allora cosa c'è in questo periodo di funghi straordinari da poter mangiare? Io so che lei è un grandissimo esperto di funghi, quindi quali sono quelli giusti per questo periodo? Beh, intanto abbiamo gli ovoli che continuano da un po' di tempo e abbiamo anche i barboni, che è il Polyporus pescapre, e per non parlare dei porcini, dei finfali, delle finfale, dei sanguigni, il lattario delicioso, il Ligrophorus punicio. Insomma, un'orgia. Un'orgia di funghi. Sì, ma quest'anno sì. La stagione è molto ricca di funghi? In questo momento, sì, prima un po' meno, adesso sì. Quindi stanno venendo fuori. Senta, ma lei è anche un grande esperto e so la sua grande cucina di selvaggina. E c'è anche qualcosa di particolare che ha nel menù in questo momento? Allora, in questo momento io ho delle pernici, ho una spuma di fagiano, ho del patè di capriolo, del capriolo, del fagiano di caccia, più avanti sarà la lepre, e ho anche della graus che sta arrivando fresca. Ecco, sempre prodotto fresco. Rimanga con noi perché facciamo un po' un giro d'Italia, però lei rimanga con noi. Ora andiamo sulla Sila, andiamo a Camignatello Silano, perché per chi non lo sapesse, in questa area i funghi veramente sono di casa. Vero Rodolfo D'Amico? È verissimo. Com'è la stagione? È ricca di funghi? Quest'anno è molto ricca e ci sono veramente tante varietà di funghi. Pensa che lei ci sta chiamando qui ed è in corso la 44esima sagra dei funghi qui al Camigliatello. E quindi sono tanti i funghi che sono arrivati, insomma. Ce ne sono tanti e abbiamo come degli ovuli che hanno fatto già la loro comparsa, porcini che ci sono più varietà. Noi stiamo utilizzando molto il Boletus aureus, che è un po' più profumato degli altri ed è più delicato. Senta, ma fungo della Sila, cioè è il porcino il simbolo della Sila? E allora, guardi, in Sila il fungo che va per la maggiore è il rosito. Noi lo chiamiamo rosito, ma il Lactarius deliciosus, che è un fungo prettamente gradito ai cosentini. Antonio Dal Lago, lei lo conosce questo fungo? Ah sì, lo conosco benissimo. C'è anche delle sue parti? Lo faccio, sì, si trova. Lo faccio ripieno al forno, che è uno spettacolo. Senta, D'Amico, lei invece come lo prepara? Beh, noi credo che il modo migliore per cucinarlo, diciamo, farlo assaporare è gratinato al forno. Quindi volevo chiedere, Dal Lago, arrivano da voi i funghi della Sila? Qualche volta quando noi andiamo un po' in crisi arriva qualcosa, sì. Quindi diciamo che la Sila è un bel serbatoio, D'Amico, anche per il resto d'Italia. È molto vasta la Sila e ci sono veramente tante quantità di funghi. Senta, ci sono ancora molti cercatori di funghi dalle vostre parti? Questo è un problema perché ce ne sono tantissimi e sono anche molto inesperti alcuni. Quindi rovinano un po' il resto. Rovinano il sottobosco ed è un danno che notevole. Senta, dal lago, mi sembra che ora ci voglia anche un patentino per raccogliere i funghi. Sì, sì, sì, ci vuole quello, e ci sono delle regole ben precise e come diceva le signore di prima, che mi scappa il nome. Il suo collega Silano. Il collega Silano ha pienamente ragione sulla capacità dei cercatori, perché c'è un po' una corsa, è un po' quasi esagerata. Perciò quelli seri hanno difficoltà di mantenere la propria identità trovando le cose come devono essere fatte e raccolte. Ecco, ma c'è ancora una professione di cercatori di funghi, quindi chi lo fa veramente per mestiere ed amico? Beh sì, noi infatti la maggior parte dei funghi che noi utilizziamo l'acquistiamo proprio dai cercatori che sono professionisti e ci portano quelle specie che noi gli richiediamo. Poi c'è anche da dire che anch'io sono appassionato e grazie al un mio amico micologo mi ha fatto conoscere altre specie che qui erano poco conosciute o del tutto inutilizzate. Ecco, volevo chiedere a tutte e due, prima Antonio Del Lago, quanto costa un chilo di porcini in questo momento? Allora, quelli qua di Asiago, quelli delle Vezzene, parte nel confine di Trentino o anche Recuaro, qua vicino, purtroppo li devo pagare 30 euro al chilo almeno, perché ma però arrivano bellissimi. Poi nel mercato si trova anche a 20, 22. D'Amico, è da voi? Beh, qui siamo un po' più bassi, siamo intorno ai 15 euro fino ai 20, quelli scelti proprio. Dal Lago, le conviene quindi farsene mandare dalla Sila? Sì, mi pare sì, che il sì, differenziale capito, sia sì, molto alto. Sì, purtroppo sì, non c'è niente da fare, altrimenti non te li portano. D'Amico, non le ho chiesto qual è il piatto importante per il suo ristorante Aquile de Del Vais di Camignatello. Qual è il piatto, diciamo, di fungo che è un po' l'emblema della vostra cucina? Perché devo riconoscere che il vostro ristorante è proprio il clou della Sila e quindi del fungo silano. Qual è il piatto principale? Vi ringrazio. Prego. Il nostro piatto è la zuppa dei funghi, come emblema di questo periodo. È una zuppa preparata con dell'uovo, del brodo e varie specie di funghi. Quindi un misto, insomma. È un misto, sì. Dal Lago, e invece voi fate la zuppa? Sì, faccio la zuppa, sì, sempre con un misto di funghi dai porcini in avanti, quello che si trova. Ecco, però noi facciamo soprattutto le pappardelle con i porcini, questi qua delle Vezzene, belli sodi. Ecco, Vezzene e Asiago, lei mi ha detto, sì, le zone, sì. Mi sembra di capire. Sì, le zone è il passo delle Vezzene, sì, vicino ad Asiago. Invece voglio chiedere a Rodolfo D'Amico un vino, perché diciamo i vini calabri stanno veramente crescendo, specialmente quelli del Cosentino. Con cosa l'abbiniamo questa zuppa di funghi, Rodolfo? Beh, la zuppa di funghi, guardi, noi stiamo proponendo un rosato, un cerasuolo del Pollino, dei vignaioli del Pollino, molto buono e risalta. Grazie Antonio Del Lago e Rodolfo D'Amico, buon fungo a tutti. Il gastronauta. Oh, che bella trasmissione oggi, sentire parlare di funghi e di tartufi, l'acquolina in bocca mi arriva, ma credo che arrivi un po' a tutti, perché sono due prodotti, due giacimenti, io li chiamo giacimenti gastronomici, che fanno gola un po' a tutti. C'è chi ama il tartufo, che c'è invece chi ama i funghi, ma poi ci sono anche gli appassionati di varie tipologie di fungo. Il porcino forse è sempre quello che è in testa un po' alle graduatorie, ma voglio portare un po' anche di, posso dire, di tranquillità per il discorso del fungo, perché abbiamo sentito da Antonio Del Lago e Rodolfo D'Amico, sia diciamo dalla provincia di Vicenza che è dalla Sila, che c'è molto caos, nel senso che ormai molti si improvvisano raccoglitori facendo non pochi disastri. E allora voglio chiedere a un grande esperto come Marco Floriani del gruppo micologico Bresadola di Trento. Buongiorno Floriani. Buongiorno. Voglio chiederle questo, ma ci sono i controlli per chi va a raccogliere i funghi, quindi per portare un po' di ordine e così che non ci siano appunto dei disastri come mi stanno segnalando da più parti d'Italia? Fortunatamente sì, diciamo che in gran parte d'Italia le aziende sanitarie locali provvedono egregiamente a fornire questo servizio di controllo gratuitamente, tra l'altro, al raccoglitore, per evitare appunto incidenti spiacevoli. Inoltre anche i gruppi oncologici stessi spesso si prestano a dare una mano al raccoglitore per evitare qualunque tipo di inconveniente. Diciamo che nella maggior parte dei casi chi si intossica coi funghi se la va un po' a cercare, perché magari peccando un po' di presunzione tende a evitare questi controlli e a presentarsi come ad autopresentarsi, diciamo, come esperto, quando esperto invece non è. Credo che in tutte, quasi in buonissima parte delle province italiane ci siano degli uffici ad hoc che danno appunto questo tipo di consulenza per conoscere quello che hanno raccolto, se si può mangiare o no, o sbaglio? Esattamente, come dicevo appunto, presso le aziende sanitarie locali ci sono degli ispettorati micologici che forniscono su appuntamento, o talvolta magari nei giorni di maggiore raccolta, quindi generalmente magari lunedì mattina per i funghi raccolti durante il weekend, un punto dove controllare gratuitamente i propri funghi. Come dicevo, nella maggior parte d'Italia questo servizio viene svolto dalle ASL. Ci sono delle situazioni un po' diverse in alcune province, per esempio proprio qui a Trento, per una tradizione ormai decennale, oltre che ben più che decennale, invece sono i vigili urbani che svolgono questo servizio. Ecco, io ora voglio andare in una regione, perché abbiamo sentito prima parlare del provincia di Vicenza, del Veneto, abbiamo sentito la Sila, poi siamo tornati appunto nel Trentino con Floriani, ma c'è una regione che magari molti, io credo che siano tanti, quelli che non pensano che sia una regione florida e molto interessante per i funghi, che è la Sardegna. Allora abbiamo con noi Renato Brozzu, che è un micologo fotografo, ha scritto tantissimi libri, Guida ai funghi della Sardegna, e poi anche una raccolta fascicoli su un giornale, sulla Sardegna, sull'Unione Sarda. Quindi devo dire che lui è un grande esperto. Allora, Brozzu, ma è ricca la Sardegna di funghi? Buongiorno, prima di tutto. Buongiorno. Sì, è molto ricca di funghi la Sardegna. È tanto vero che anche meta di visita da parte di tanti micologi di tutta Europa, proprio per la sua particolarità, molto legata alla vegetazione e alla particolarità del suo clima, e qui per le specie mediterranee sicuramente un grande paradiso, insomma. Ecco, quali sono, diciamo, le varietà più importanti tra i funghi della Sardegna? Ma sicuramente ci sono specie che si sono adattate all'isolamento, per cui sono venute fuori molte specie nuove per la scienza negli ultimi anni, e questo un po' perché è stata poco studiata in passato e un po' proprio perché i funghi hanno questa capacità di adattamento e di in qualche modo sviluppare poi delle caratteristiche proprie in un'isola. Questo avviene spesso per la vegetazione, invece è meno conosciuto questo fenomeno per i funghi. Poi si sta, per la verità, si sta anche affermando per i tartufi. Ah, ecco. Questa è una grande sorpresa di questi ultimi tartufi. Tartufo bianco? E più che il tuber magnatum, sì. Esiste però il tuber estivum e il tuber melanosporum, che sarebbe conosciuto come il tuber di Norcia. Insomma, sì, certo, sì, sì. Quello nero, insomma, per intenderlo. Esatto. Quindi diciamo che questo qui in quale zona è stato, diciamo, quale zona è ricca? La Barbagia, forse? Il Sarcidano, la subregione del Sarcidano, lacco, in quella zona lì, e oramai ci sono molti raccoglitori e si sta affermando come, insomma, luogo di raccolta, e si sta anche introducendo il tartufo come novità nella cucina anche sarda. Questa è una novità. Senti, infatti è una novità, conosco abbastanza bene la Sardegna e la cucina, però mi è capitato di mangiare funghi, questo sì, sì. Molto buoni, però il tartufo mai, diciamo che ormai poi lo vedremo, il tartufo veramente sta fiorendo in questo paese un po' ovunque, forse prima era stato trascurato, poi visto i prezzi magari qualcuno ha cominciato a subdorare l'affare. Rimanga con noi, Brozzu, perché ora ho un personaggio personaggio molto particolare da mettere, diciamo, da mettere sul banco, come si dice. È un cuciniere, lui si definisce cuciniere e non cuoco, questo è importante nonostante sia un bravissimo cuoco, ed è anche giramondo, ma ha scritto un qualcosa veramente di particolare. Addirittura, ascoltate, udite bene, l'estetica del fungo tra filosofia e gusto. Buongiorno a Carmelo Chiaramonte. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ma esiste un'estetica del fungo? Esiste un'analisi delle tipologie di fungaiolo, i tic che possiede, i modi di operare, quello che pensa, perché poi l'uomo nel bosco in qualche modo ha un modo di relazionarsi con la natura. Ma dacci qualche caratteristica particolare, allora raccontaci qualcosa di particolare che hai scoperto mentre scrivevi questo libro. Intanto io l'ho scritto con un docente di filosofia di Roma che si chiama Toni Saccucci, che ha scritto la parte proprio relegata al fungaiolo, che lui sostiene che sia uno ettrino in quanto è cercatore, trovatore e raccoglitore. Ci sono dei rimandi anche ai modi di pensare, a quello che ha scoperto così della filosofia Hegel, che il fungaiolo se non riempie il cesto e quindi non ha questa qualità nella quantità, non riesce a trattenersi, non va a casa. Quindi è un ingordo da questo punto di vista, diciamo sì. Così. Dal punto di vista... Ci sono anche gruppi di persone che usano il GPS per orientarsi sulle fungaie. Ormai sai, la GPS è entrato di forza, ma questo, tu hai fatto una parte del gusto però su questo libro. Io ho fatto sì la parte del gusto, che praticamente parla degli errori che si fanno in cucina, di qual è anche il modo di cucinare i funghi, perché in realtà noi abbiamo una base tradizionale che richiede, non so, l'aglio piuttosto che il burro, la pancetta, la fontina, la fonduta, però mi è piaciuto analizzare il fungo anche dal suo punto di vista, perché intorno al fungo crescono la nepitella, la pimpinella, la fragola di bosco, crescono i germogli di tante piante che sono commestibili, più di 200 intorno al bosco e quindi dentro il bosco, e quindi ho affrontato anche una gastronomia un po' così visionaria, però più relegata alla natura. Carmelo, tu il fungo come lo cucini? C'è un piatto in particolare? Ma negli ultimi periodi ho approfittato della conoscenza botanica di una mia amica che si chiama Noris Cunaccia, e tu hai assaggiato qualcosa che mi ha insegnato a fare un brodo di terra raccolto ad alta quota, molto pulita, che viene cotto 7 volte in acqua bollente. Poi filtrate da questo brodo di terra io ci cucino un riso dove poggio i porcini o crudi un po' cotti appena spadellati. Beh, quindi per sentire proprio il sottosuolo e sopra il suolo. Il profumo sale e anche la fame sta salendo. Grazie a Carmelo Chiaramonte. Voglio chiedere a Renato Brozzo se lui è un cercatore di funghi. Ma lo sono, anche se mi diverte di più andare a fotografarli, studiarli. Non sono un grande mangiatore, anche se gli amici quando vengono a casa chiaramente pretendono che cucini funghi. Marco Floriani, lei è un cercatore? Io un po' come Renato, carissimo amico di vecchia data, condivido la passione per la fotografia e per lo studio dei funghi, quindi sicuramente rispetto ai cercatori più concentrati sui porcini ne raccolgo quantità minori, però sicuramente il piacere della passeggiata nel bosco cerco di concedermelo il più spesso possibile. Ma lo chiedo prima a lei e poi a Brozzo, ma la condividete questa immagine fatta da Carmelo Chiaramonte di questo, diciamo, ingordo cercatore di funghi, che più ne ha e più ne vorrebbe cercare? In certi casi purtroppo è così, sì, bisognerebbe cercare di darsi dei limiti, anche perché raccogliere funghi ovviamente vuol dire sempre anche alterare, entrare un po' a contatto con la natura, quindi ci vuole sempre anche un rispetto per il bosco e quindi prendere quello che ragionevolmente si può consumare, però senza esagerare, ecco. Molti cercatori di funghi invece col tempo imparano ad apprezzare, magari una volta soddisfatte proprio gli istinti più immediati, imparano ad apprezzarne la bellezza, le forme, come è stato detto appunto dal nostro amico Carmelo, e quindi a vedere il bello del fungo e quindi magari a comportarsi anche con più rispetto e moderazione nel bosco. Il gastronauta. Mamma mia, che scorpacciata di funghi mi sto facendo, Magari trovassi uscito di qui un bel piatto di, di porcini, oppure perché no anche una bella zuppa magari di funghi misti. In realtà purtroppo non sarà così, ma continuiamo magari a lavorare con la fantasia, a lavorare con il naso e senza avere i profumi sotto mano, ma immaginarli, perché sì, è molto bello immaginare, e credo che la radio abbia questo grande vantaggio di far ruotare l'immaginario, che è molto bello, magari ruotare l'immaginario del viaggio, quindi immedesimarsi nei posti che stiamo percorrendo. E ora andiamo nel borgo del Val di Taro, andiamo appunto in un'area in provincia di Parma che è molto conosciuta per i funghi. Beh, Parma è conosciuta anche per tantissime altre cose, però sicuramente in questo periodo parliamo di funghi, poi parleremo anche di maiali, fra un po' parleremo di salumi, ma fermiamoci ai funghi e andiamo appunto in un locale di Borgo Val di Taro che si chiama I Due Gatti. Molti immagineranno chissà che cosa. In realtà i due gatti sono due fratelli. Uno è Massimo Gatti, che è con noi. Buongiorno Gatti. Buongiorno signor Padini. Buongiorno. Massimo, io volevo chiederle questo. Qual è la situazione in questo momento? Perché io ricordo, mi sembra un mese fa, di aver sentito dei grossi pianti dalle vostre zone, che di funghi ce n'erano ben pochi. Con questo clima cambiato, oggi com'è la situazione? Allora, abbiamo avuto un mese molto buono dopo quel iniziale pianto di cui lei parla. Adesso purtroppo si è girato con questo ciclone più freddo, questa invasione per l'Italia, sicuramente le crescite sono rallentate in questi ultimi 2-3 giorni. Ricordiamo che logicamente il fungo è dotato di vita propria, quindi non possiamo controllarlo, basta a volte un raffreddamento improvviso come quello di stanotte che può sicuramente danneggiare il raccolto. Ecco Gatti, lei mi dà uno spunto su questo, ma i funghi si possono conservare? Si possono conservare assolutamente, diversi funghi possono essere seccati, quasi tutti essere messi in conserva sotto olio, l'importanza è creare un sott'olio sano, che non abbia troppo sapore d'aceto, ma che comunque l'aceto venga usato per non rischiare il botulino, che insomma certo. Senta, ma sistemi come il sottovuoto, il surgelatore funzionano con i funghi? Sicuramente il sottovuoto è un metodo per aumentare la conservabilità del prodotto fresco. Surgelare il fungo consiglio di abbatterlo con abbattitore termico dopo magari previa parziale cottura o sbollentatura, questo per magari fissare maggiormente i profumi e le consistenze. Ecco, abbiamo sentito Gatti che ci ha raccontato come questo, diciamo, arrivo del freddo, arrivo improvviso del freddo, delle piogge e di altro, stia portando un po' dei cambiamenti anche sui prodotti. Ma io voglio chiedere ad Ezio Costa, trifolao piemontese di Alba, della zona di Alba, se questi problemi oggi sono anche sul tartufo, tartufo bianco d'Alba. Buongiorno Costa. Oh, buongiorno, buongiorno. Ma ho sentito un po' cosa stavate dicendo, ma guardi, noi devo dire che le piogge per il tartufo le abbiamo avute, siamo stati abbastanza fortunati perché quest'estate abbiamo avuto molti temporali importanti, che quindi stiamo andando, io guarda, sono nei boschi tra l'altro e stiamo andando veramente bene. Senta, ma è col cane nel bosco? Beh, per forza, accidenti, senza il cane, il mio amico fedele, senza il cane non se ne parla. Senta Ezio, ma non ha paura che qualcuno lo segua per scoprire dove lei sa dove sono i tartufi, no? Guardi, qui purtroppo è una lotta continua, chi è primo, sa com'è? Sì, certo, però molti se lo segnano, poi l'anno dopo vanno su quei posti lì. Ma tanto se non c'hanno il cane non c'è niente da fare, perché ogni cane è talmente abituato a cercare nei suoi posti che se arriva un forestiero non li trova. Senta, come si chiama il suo cane? Il mio cane è Jolly. Jolly. Ma Jolly, guardi, è una femmina di 9 anni, è uno spettacolo. Senta, sentiamo Valentino Berni, che è presidente dell'associazione Tartufai delle Crete Senesi di San Giovanni d'Asso, se anche lui nei boschi col cane. Buongiorno, buongiorno Valentino. Buongiorno, buongiorno. Anche lei è col cane, nei boschi? No, in questo momento sto raccogliendo. Sta raccogliendo cosa? Sto raccogliendo l'uva, mi sente bene? Ora sta raccogliendo l'uva, ma i funghi, sì, il tartufo l'ha già raccolto stanotte? Non si può andare di notte, la mattina presto, e inizia alle 6 in questo momento, alle 6:30 in questo momento. Senta, il calendario. Ma cosa ha trovato stamattina? Stamattina poco, piccolini, ma solo 3 tartufini piccolini. Senta, questa settimana com'è andata? Questa settimana com'è andata? Abbastanza male, perché è piovuto tutta la settimana e quindi siamo anche molto sott'acqua. Questo è un grosso problema per il tartufo. Senta, ma sì, voglio chiedere a Costa, quanto è il prezzo al fixing di Alba oggi a chilo del tartufo, Ezio? Ma guarda, il prezzo non è che abbiamo un prezzo fisso, perché dipende molto dalla pezzatura, capisci? Non è che possiamo dire il tartufo costa 500 euro o 200 euro. Ma un tartufo di 2 etti, 1,5 etti, ecco, 1,5 etti. Quelle pezzature lì si aggirano attorno ai 500 euro di sicuro. 500 euro. Invece a San Giovanni d'Asso, Valentino? Attualmente siamo tartufo, diciamo, sì, grande, dai 1.500 ai 2.000 se fatto veramente bene, poi il resto siamo sui 1.000, anche sotto 1.000. Senta, le previsioni per le prossime settimane sono floride per il tartufo oppure c'è qualche problemino in vista? Valentino? Speriamo che venga un'annata di tartufi, visto che è stata talmente drammatica e non è da ripetere, diciamo così. Quindi diciamo che per gli amanti del tartufo, insomma, si prevede un'annata un po' grama. Vero Costa? È così anche da voi? No, guardi, io ti dico, ma sinceramente, non per vanto o per niente, siamo in un momento che ne troviamo abbastanza. L'annata è partita abbastanza bene, anche perché quest'anno ha ritardato un po' la ricerca proprio per legge, quindi siamo partiti più tardi, ma in questo momento ne stiamo veramente, è una bella buttata, lo dico sinceramente. Ecco, diciamo anche che da zona a zona sicuramente ci sono dei momenti diversi, ovviamente anche dipende molto, molto, molto dal clima, ma cos'è auspicabile, Valentino, che nei prossimi giorni venga il sole oppure che venga la nebbia? Sicuramente che venga il sole, diciamo così, nel senso che noi siamo abbastanza, come ho detto prima, sott'acqua e quindi, ecco, abbiamo bisogno più che il sole anche magari un po' di tramontana. Costa, voi avete bisogno di sole? Pronto? Avete bisogno di sole voi, Costa? Ah, noi di sole ne abbiamo avuto abbastanza, adesso comunque sia il terreno è soffice, ma anche se c'è il sole va bene. Ecco, l'anno scorso diciamo che la stagione si è molto protratta nel tempo, a dicembre si trovavano ancora degli ottimi tartufi, quest'anno Costa prevede che sarà così oppure bisognerà mangiarlo entro novembre? No, io sono convinto, visto che siamo partiti tardi, l'annata sarà un'annata che andrà sicuramente fino a gennaio. Addirittura, sì, quindi... Sì, ma qui poi quando si trovano anche sotto la neve, se non ce n'è mezzo metro, cioè... io poi c'ho un cane che li trovo anche sotto la neve, ma se c'è solo un palmo di neve li troviamo anche a gennaio. Valentino, voi prevedete una lunga stagione oppure a novembre bisogna chiudere i battenti? Per noi il 31 di dicembre chiude comunque, quindi prevediamo e speriamo di arrivare a quella data lì, dopo di che non ci sta nulla. Se ci sono tartufi meglio, almeno rimangono, diciamo, sì, produzione per gli anni successivi è buono, però la raccolta è finita. Ecco, il cane di Valentino, che razza è? Che razza è il suo cane? È un bastardo puro, si dice proprio in toscano classico, nel senso che è un mix di varie razze, c'è un po' di lagotto romagnolo, spring spaniel, segugio, c'è un po' di tutto. E com'è che si chiama? Ne ho tanti. Ah, bene, bene. Costa, il suo cane che razza è invece? Il mio anche, guarda, sono tutti in croce, ma poi c'è un altro che è uno spinone puro per modo di dire, lì. Comunque non c'è una razza particolare, il mio anche un incrocio, c'è un po' di tutto lì. Noi diciamo che è il figlio del più lesto. Benissimo, grazie a Valentino Berni. Ezio Costa, voglio tornare da Massimo Gatti per un momento, visto che lei ha un ristorante. Gatti, quali sono i, diciamo, i piatti tradizionali della Val di Taro con i funghi? Beh, allora, principalmente l'utilizzo del porcino, che è il porcino IGP di Borgo Val di Taro. E poi si lavorano anche altri funghi, assolutamente. Quindi anche lì il fascino di andare a lavorare tanti prodotti come il grifo, come i cantarelli, o come gallette, finferli. Ecco, è un piatto particolare vostro, dei due gatti? Risotto ai porcini e mirtilli, tagliatelle ai porcini, funghi fritti, il grifo con crema di patate, nocciole, cotechino. Tanti prodotti possono. Senta, il grifo è poco conosciuto come fungo. Io non lo conosco, è molto particolare della vostra zona? Ma penso che sia un po' in tutta Italia, un fungo che cresce abitualmente nei boschi di castagne. Ma magari in altre parti si chiama in modo diverso, perché anche sui funghi ci sono, come per le carni, come per tanti prodotti anche di salumeria, ci sono nomi diversi di luogo in luogo. Bene, io la ringrazio Gatti, la ringrazio. Grazie a Massimo Gatti. Il gastronauta. Mamma mia, che voglia di tartufo, che voglia. Ma devo dire che mi sono inventato un piatto anni fa che porta il nome Boccone del gastronauta. Ha avuto anche molto successo. Ci sono dei ristoranti che lo hanno messo in carta a un prezzo, devo dire, molto caro. Nessuno mi ha dato mai la royalties. Comunque questo ve lo racconto perché ora ho anche in linea due esperti di tartufo. Il mio piatto è questo: prendere pane casereccio, dargli una scottata in padella, un goccio di olio sotto, poi sopra invece della Nutella tagliate a fette il tartufo, proprio come fosse una Nutella, tutta sparsa per questo crostone di pan. Sopra tre chicchi di sale grosso e voilà, il boccone del gastronauta. Ma voglio sentire Alberto Bettini cosa ne pensa. Buongiorno Bettini. Buongiorno, ne penso bene. Un piatto che coniuga un ingrediente povero, che potrebbe essere un pane raffermo, ha un ingrediente di grande qualità come il tartufo bianco, ma molto buono anche col nero, penso, questo tipo di preparazione. Sì, l'importante è i due chicchi di sale grosso, perché il sale e l'olio sono due esaltatori di profumo e quindi emerge veramente il profumo del tartufo. Ma certo. Alberto, volevo chiederti, Alberto Bettini è da Amerigo a Savigno, che è notissima come ristorante, ma anche come grande esperto del tartufo della sua zona, di Savigno. Com'è la stagione quest'anno, Bettini? Allora, la stagione è partita bene, tartufo di buonissima qualità, meglio di quello che mi aspettassi. La quantità è media, ma penso che si assesterà sul medio-alto come quantità, quindi i prezzi tutto sommato sono accessibili e la qualità è molto buona. Senti, ma tu hai una cucina anche a base di funghi, quindi la zona, sì, appunto, di Savigno è ricca anche di funghi. Sì, la zona di Savigno è il nostro comune, è un comune che ha un territorio che va dai 300 agli 850 metri, quindi è una zona intermedia, ricca di funghi sia primaverili che autunnali, un po' meno d'estate perché è abbastanza secca la nostra estate, molto calda. In questo periodo in particolare, dopo questi 10 giorni di pioggia, di umido, di nebbia, anche abbastanza fitta, soprattutto nelle vette più alte, c'è stata una bella buttatina. Dopo invece qualche periodo un po' di siccità e quindi di crisi. Senti, abbiamo sentito delle differenze di prezzo notevoli tra San Giovanni d'Asso e il Piemonte. Invece a Savigno quali sono i prezzi che girano per il tartufo? Dunque, prezzi, parlando di prezzo al pubblico, cioè, nel negozio, sui banchi, così, si va da una pezzatura piccola, ma grattabile, come si dice, no? Sì. Attorno ai 120-130 euro letto, fino a arrivare al doppio, però palle già verso letto, ecco, roba molto scelta, molto bella, di qualità. Naturalmente, essendo a inizio stagione, questi sono prezzi per un tartufo già pulito dal fiorone, cioè da quello ancora forato, non di grossa qualità, che si trova talvolta ai primi periodi della stagione. Ecco, rimani con noi perché ora vado in un territorio, in una regione che non tutti sanno che non è ricca, ma è straricca di tartufo bianco. È poco conosciuta, forse ha saputo poco valorizzare questa, diciamo, questo giacimento gastronomico veramente molto importante, che è il Molise. Già negli anni passati, quando abbiamo parlato di tartufo, io ho sempre dato un largo spazio a questo territorio, perché è giusto anche perché, come dicevo, magari ci sono altri territori che poi magari utilizzano il tartufo del Molise, e quindi sicuramente non fanno una bellissima operazione, però questo succede, il mercato è libero, il mercato aperto, fino a quando non ci sono i bollini su ognuno dei tartufi è difficile di identificare, come si dice, l'origine oppure diciamo la tracciabilità. Ma io voglio parlare con Nicolo Dell'Omo, non di questo, ma voglio chiedere se anche quest'anno il Molise è ricco di tartufo come negli anni passati. Buongiorno Nicola. Buongiorno a tutti. Sì, Davide, quest'anno la stagione è partita molto bene. Diciamo che la temperatura qui è ancora abbastanza alta, per cui non abbiamo una pezzatura molto, molto importante. Diciamo che si sta cavando abbastanza, le quantità sono maggiori rispetto all'anno scorso, il fatto è determinato dal prezzo. In effetti quest'anno il prezzo è abbastanza basso, confermo ciò che è stato detto poco fa, è più o meno un 100 euro, 120 euro letto per il monte, lo chiamiamo noi, cioè quello che il cavatore raccoglie, quindi che va da una pezzatura dai 10 grammi a salire. Quindi da voi si chiamano cavatori, in Piemonte si chiamano trifolau e anche in Toscana credo che si chiamano cavatori, un modo veramente anche simpatico appunto di chiamare chi si occupa di tartufo. Ma la stagione è iniziata presto quest'anno Dell'Omo, la stagione del tartufo da voi in Molise? Sì, da noi in Molise si può raccogliere il tartufo bianco dal 1° di ottobre fino al 15 gennaio. Dopodiché ovviamente c'è qualcosa agli inizi, però come è stato detto prima è fiorone, cioè un tartufo che presenta all'interno della sua pasta dei buchi, e ovviamente più la temperatura è alta e più il tartufo è soggetto ad essere mangiato dagli animali che sono sottoterra, quindi diciamo che noi lo distinguiamo in un tartufo buono e un tartufo lumacato, cioè quel tartufo che presenta dei buchi all'esterno che sono dovuti alle lumache che sono andati a mangiare. Ecco, dicevo che in questo momento appunto il tartufo si trova in tantissime aree dell'Italia, in tantissimi territori. Un tempo invece erano 3 o 4, non di più, appunto Alba, Acqualagna, il Molise, la Toscana, però ora sono venuti fuori tantissime altre aree. Io qui avrò decine e decine di inviti a sagre, a feste che riguardano il tartufo, in provincia di Mesola, in provincia di Ferrara, a Dovadola, ecco Dovadola vicino alla mia città natale, di conseguenza conosco abbastanza bene l'acqua cheta, come scrive Dante, e ricorda i tartufi appunto sulla Divina Commedia riferiti all'acqua cheta, che è appunto quella zona che va a Modigliana, Dovadola, una zona bellissima della Romagna. Ma io ora voglio tornare, visto che siamo in Romagna, torniamo in Emilia, torniamo da Alberto Bettini, tu sei anche un cuoco, sei anche uno chef, e dimmi un piatto particolare che fai appunto dedicato al tartufo. Beh, diciamo che il piatto che tutti amano mangiare in questo periodo è l'uovo. L'uovo poi è un abbinamento per eccellenza, il tartufo. Noi lo facciamo in due modi, e serviamo le due uova nel piatto. Naturalmente, allora, partiamo dall'idea che l'uovo al tegamino si fa sempre. L'amante dell'uovo al tegamino, occhio di bue, c'è sempre e lo accontentiamo sempre. Però da alcuni anni ci divertiamo ogni stagione a fare due uova in modi diversi. E uno è sempre fisso, che è un uovo montato. Montiamo il bianco dell'uovo a neve, rimettiamo il tuorlo all'interno crudo, poi li mettiamo al forno e diventa una sorta di soufflé d'uovo con l'uovo fluido, col tuorlo fluido, che rompendo questa coltre montata di bianco d'uovo crea una salsa. E il bianco serve un po' come il pane, a fare la scarpetta col tuorlo. Naturalmente il tartufo ne mettiamo un po' dentro insieme al tuorlo e sopra con una fondutina di parmigiano reggiano. Mamma mia che fame, mamma mia che fame, mamma mia che fame. Però dico, vi do un consiglio io: non affogate il tartufo, perché il tartufo è profumo, va messo in piatti che sono, bisogna tenerlo in superficie, perché al massimo è quello crudo. Bianco, com'è? Sempre crudo. Sempre crudo, certo. Invece quello nero si può anche riscaldare, ma quello bianco assolutamente no. Dell'uomo, qual è il piatto classico molisano? No, da noi, vabbè, al di là delle, delle uova che anche qui si usano parecchio, ma noi soprattutto con i tagliolini, non tanto con le tagliatelle, ma con i tagliolini, riserviamo con dei tagliolini, con una crema di cavolfiori e ovviamente essendocene tanto un po' tutti i ristoranti si dilettano anche in, in nuove scoperte, però diciamo che l'occhio di bue e la pasta rimangono i tradizionali. Bene, grazie a Niccolò Dell'Omo e grazie a Alberto Bertini. Mentre sto chiudendo, a inizio Milano Golosa, 12-14 ottobre a Milano, spazio Calabiano in via Calabiano 6, dove ci saranno degustazioni, dove si imparerà a fare la spesa, insomma si potranno così gustare tantissime cose e perché no anche il tartufo. Io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento con la prossima settimana. Un caro saluto da Davide Paolini.